fatto, perdono il mio fato, lasciando poi sospeso il fiato nell'anima. E non è dolce amaro il gusto della resa, tra lacrime di miele colori l'anima. Ma la risposta ad ogni lacrima più pura sarà la fine di quei giorni senza limiti a metà. Se perdi poi il respiro delle sensazioni, ti guideranno via i ricordi malinconici a metà. Non è dolce amaro il gusto della resa, tra lacrime di miele colori l'anima. È un vortice la fine che ci risucchia dentro, non ha più sangue l'ira che ci divide già. Ma la risposta ad ogni lacrima più pura sarà la fine di quei giorni senza limiti a metà.